contrappongo Even, inespressivo come Steven. Mi piace stare nel mio Spielberg, rifiuto Spielberg, non faccio ridere per niente. Hai poco da ridere, hai poco da dire, potrai marcire dentro e tu pezzo di merda non lo faresti mai a sapere. Brucio tutti i giorni, mentre stormi di storni mi divorano le carni. La congiunzione, la collaborazione di vermi e putrescente muffa nera attacca i nervi e mi ritrovo in piena soddisfazione dell'ego malvagio. Presagio di morte, argomento di scherno, mutilazioni oscene, non mi riservo insulti, sono il principe del freddo. Covo odio dentro e non lo espello, non lo esterno, il mio pancreas cede, sono pervaso dalla bile, sei abile e questo mi fa ancora più incazzare. Non faccio altro che pensare di membrare quando potevo ancora invidiare la gente normale. Ora piango ma sorrido fuori quando sento turbo il mio vivere. Quando mi rendo conto di essere una persona di merda riesco perfino a sorridere. Accena col cartino, tu incline, io mi inclino. Cremino nero, ua nero, col nonno tuo genario come l'italiano che confessa di Polito Nievo. Sei nuovo? No, sei giovane, ma impari fretta idee serie di serie. Potrei imparare a scrivere mancino da buttarmi il braccio destro, solo per sapere cosa ne pensa di me e il resto dei popolanti di questo melone fin troppo maturo. Ben urdomi nel mondo, spalleggiato da un paguro Bernardo che lo comanda sul piacimento. Male, qualcosa è male, perché non io? Quale peggiore posizione avrei potuto scegliere? Non ho niente da perdere, nessun valore da difendere. Non ho un pensiero preciso da diffondere con il quale ti possa convincere. La legge è perdere per farti vincere, il gioco a somma zero. Se va bene sto in minoranza, altrimenti sto da solo. Solo il freddo fuoco venetico riesce a pervadermi. Sia chiaro che non sono pronto ad invaderti, che il mio obiettivo non è sconfiggerti, che non conosco colpi da infliggerti. Aspetto che tu riesca a struggerti per poi deriderti. Pensieri lucidi, il parassita sta male. Infatti non bevo alcolici ma ho consumato già 11 fegati, perché sto sempre a rodermi dei nuovi nobili sui nuovi mobili. Non ho bisogno di motivazioni plausibili, tutte mie dunque in continuazione. La mia missione, sancire la cessazione di tutte le ipocrisie positive, o perlomeno morire nel tempo. Tentativo.